Marian Evans, Marian, che è nota al mondo come George Eliot, ma che in realtà si chiamava Marian. Marian è il nome che lei scelse di avere, il nome di battesimo era Mary Ann, ma lei si ribattezzò Marian, quindi la chiameremo così, come già abbiamo fatto la volta scorsa per Catherine Mansfield, che abbiamo chiamato Cass. Quindi le chiamiamo con i nomi che avrebbero usato le loro sorelle per chiamarle. Quindi Marian nacque, è una di queste grandissime donne straordinarie, di una forza, di un coraggio che affrontarono situazioni che a me sembra veramente, mi sembrano veramente difficilissime, nonostante io non sia per nulla una donna codarda o debole. Io sono una donna coraggiosa e forte, ma alle volte penso se io avessi dovuto affrontare quello che hanno affrontato loro, ce l'avrei fatta. Bene, lei nacque contemporanea delle sorelle Bronte. Ci fu proprio un periodo verso la fine del secondo ventennio dell'Ottocento in cui nacquero un po' tutte quante scaglionate, Emily Bronte, Marian Evans, appunto, George Eliot, poi prima Charlotte Bronte, poi Marian, che nacque nel 1818, poi Emily Bronte, Elizabeth Gaskell, Anne Bronte e Emily Dickinson, nascono un po' tutte quante in questo periodo e vivono anche quindi nello stesso periodo. Dobbiamo ricordarci che Catherine Mansfield, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e Virginia Woolf, di cui parliamo tutte le volte perché è veramente una maestra immensa, nacquero e vissero circa 100 anni dopo, scusate, 70 anni dopo, quindi verso la fine. Sì, sono registrate, Mariella, sì, stiamo registrando tutto. Quindi 70 anni vogliono dire tanto, perché le donne che nacquero all'inizio dell'Ottocento si trovarono a operare in piena cultura vittoriana, quindi avevano questo grosso tabù da abbattere. Marian Evans, Marian, nacque nello stesso anno della regina Elisabetta, mentre Cass e Virginia Woolf operarono all'inizio del Novecento, c'è cioè un secolo in mezzo, e in questo secolo davvero successero tantissime cose per le donne. Cioè, le donne in questi 70 anni fecero molta più strada di quanto non avevano fatto negli ultimi 400 anni. È stato un periodo veramente denso di conquiste, di lotte e di conquiste per tutte le donne. Ma questi 70 anni di differenza sono veramente, ci mostrano un po' tutto il cammino che le donne hanno compiuto nel prendere coscienza di quello che sono e di quello che valgono. Ecco, Marian affascinò il mondo vittoriano, lo sconvolse perché ruppe tutte le regole possibili e immaginabili. E nonostante questo, la regina Vittoria, che fu colei che scrisse le regole che poi Marian infranse, la regina Vittoria ebbe molto caro il lavoro di George Eliot una volta che fu accettata, poi riscattata dai suoi connazionali e teneva molto caro il suo autografo. Ecco, fate conto che mia madre studiava letteratura inglese negli anni 50, alla fine degli anni 50, e a quell'epoca ancora gli insegnanti insegnavano George Eliot come se fosse un uomo, ne parlavano usando il maschile. Eppure si sapeva che era una donna, però nelle scuole ufficialmente veniva presentata come uomo. Mia madre studiava letteratura inglese nel 58, quindi pensate che razza di assurdità, di idiozia. Era una donna, quindi perché veniva presentata come uomo? E ne parlavo con mia madre giusto qualche giorno fa per chiederle questo dettaglio, perché secondo me è importante. Pensate che nell'Enciclopedia delle Donne ad oggi non esiste la voce George Eliot. Chiedono qualcuno che se ne occupi, chiedono un'autrice che scriva la storia di George Eliot. Quindi è una donna veramente tanto controversa, con una storia veramente complicata, anche difficile da raccontare perché è stata molto movimentata. E mia madre mi raccontava, tra le altre cose, che voi sapete che il diritto di voto in Italia arrivò nel 45. Mia madre votò la prima volta a 21 anni, quindi negli anni 60 più o meno. E nonostante questo mi raccontava che per molti anni le donne chiedevano agli uomini che cosa dovevano votare, anche se erano autorizzate a votare, ma non votavano quello che loro sentivano giusto, votavano quello che i loro padri o mariti o fratelli consigliavano loro di fare. E questo mi porta alla memoria il grande insegnamento di Gabriela Mistral e di Evita Perón, di cui ho appena terminato insieme a Giorgia il video per la scuola delle donne. Queste due immense antenate, Gabriela e Evita, dicevano che non serve a niente portare la donna a votare se non le si insegna a pensare con la sua testa, se non le si restituisce il senso del suo valore. E la stessa George Eliot sostenne che battersi per il suffragio, lei non si batté mai per il suffragio universale, le fu chiesto come mai, e lei rispose, un po' in linea con questo pensiero, che è inutile che le donne vadano a votare se prima non vengono educate alla libertà. E in effetti la storia ci ha dimostrato che le donne sono andate a votare per un lungo periodo, non hanno fatto nient'altro che aumentare il numero dei voti dei loro mariti, padri o fratelli, perché non avevano, semplicemente non erano abituate a pensare, non consideravano il fatto che potessero pensare, scegliere, che potessero scegliere, ecco, questa è la parola magica. Quindi quello che stiamo facendo noi con 100 anni di ritardo, più di 100 anni, 150 anni di ritardo, è quello di imparare a pensare con la nostra testa, perché purtroppo la gran parte delle donne ancora non è capace di pensare con la sua testa e quindi continua semplicemente a trascinarsi in questo solco patriarcale che è stato tracciato per noi, dall'educazione, dalla scuola, dalle madri, dalla tradizione, e sono poche le donne che riescono ad uscire e a pensare con la propria testa in modo femminile, perché molte pensano, credono di pensare con la propria testa, ma in realtà pensano in modo maschile, perché questo è quello a cui ci hanno abituate. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è ancora lungo. È ben lontano dall'essere terminato, ma visto che qui siamo a scuola, va bene, ci stiamo rieducando e stiamo imparando, apprendendo. Ecco. Allora, la prima regola che infranse, la fondamentale, George, Marian, fu di rinunciare ad andare in chiesa, rinunciare alla religione anglicana. O meglio, continuò ad andare in chiesa, ma semplicemente per non creare problemi a suo padre, ma in realtà disse a suo padre che lei non si sarebbe distaccata dalla religione anglicana e avrebbe smesso di pregare, perché non si sentiva più congruente, si rendeva conto, disse, che la religione anglicana non aveva compassione, non aveva tolleranza, non aveva umanità, era solo un insieme di regole rigide. Lei aveva conosciuto, durante la sua prima giovinezza, aveva conosciuto Ralph Waldo Emerson, che era un predicatore americano umanista, una sorta di cristianesimo umanistico delle origini, lo stesso che aveva influenzato Louisa May Alcott, l'autrice del ciclo delle piccole donne. Questo signore girava per le campagne predicando l'uguaglianza, l'umanità, la solidarietà, una sorta di catarismo, di movimento cataro dell'Ottocento. E lei anche, Marian, conobbe questo uomo e ne rimase profondamente influenzata, al punto che disse a suo padre che non voleva più pregare secondo la religione anglicana. E suo padre le tolse il saluto, smise di parlarle e non le parlò più neanche in punto di morte. Questo fu un grandissimo dolore per Marian, che aveva perso la mamma molto giovane, ma lei rimase comunque coerente con la sua scelta. Questo ci porta a ricordare un'altra grande antenata, Emily Dickinson, la poeta, scusate, americana. Io ho in mente una scena incredibile del film A Quiet Passion, dove lei è protagonista, in cui il predicatore di turno va in casa per pregare, tutti si, lei, la madre, la sorella, il fratello, il padre si inginocchiano per pregare, lei rimane seduta, Emily rimane seduta sulla sua sedia. Il padre furibondo alla fine le chiede perché non si è inginocchiata e lei risponde: io non mi inginocchierò, non mi voglio inginocchiare. E il padre le dice: ma non pensi alla tua anima? E lei risponde: proprio perché penso alla mia anima, io non mi voglio inginocchiare a nessun dogma, a nessuna religione. Ecco, Emily Dickinson pagò queste sue scelte rimanendo reclusa nella sua stanza per tutta la sua vita. Marian lo pagò essendo considerata un'eretica e una fuori casta. Sappiamo quanto contassero le caste nella cultura inglese dell'Ottocento. Quindi essere una fuori casta significava non appartenere a nessun rango e soprattutto con l'essere rifiutata dalla sua gente, dal popolo inglese. Lei dovette scappare, a un certo punto dovette andarsene in Germania perché l'Inghilterra non la accettava, ma lei rimase fedele al suo sentire, ai suoi principi fino all'ultimo. Non si piegò mai, non accettò mai compromessi. Ecco, suo padre non la sostiene perché suo padre era un perbenista vittoriano convinto, ma lei in qualche modo trova chi la sostiene. Ossia, nel romanzo Il mulino sulla Floss, che secondo me è il suo capolavoro e che è registrato in versione totale sul canale della Scuola delle Donne. La protagonista è ovviamente lei, Maggie Tulliver è Marian. Maggie Tulliver è una bambina di un'intelligenza straordinaria, proprio come lei, di una bellezza straordinaria, cosa che Marian non fu, ma volle, in ogni caso, volle farsi questo dono, volle dipingersi anche come bellissima, perché durante la sua vita il fatto di non essere attraente le costò moltissimo in un mondo patriarcale e androcentrico dove l'unico valore della donna era la bellezza. Lei che oltre ad essere intelligente, ad essere coltissima, ad essere emancipata, non era bella, aveva un doppio handicap, capite? Quindi Maggie Tulliver è bellissima perché è il suo riscatto. Maggie Tulliver, la protagonista del Mulino sulla Floss, bambina ribelle, si taglia i capelli per protesta contro la famiglia e il padre si mette a ridere e dice: Father will take your part. E papà prenderà la tua parte, prenderà le tue parti. Quella frase, secondo me, è uno dei riscatti. A me succede che trovo delle frasi che, secondo me, riassumono una vita. E in quella frase, secondo me, Marian ha riassunto molto del suo dramma. Lei ha dovuto inventarsi nel suo romanzo un padre che prendesse le sue parti, perché nella vita non lo ebbe. Sia il padre che il fratello la rifiutarono, la ripudiarono completamente per le sue scelte. Quindi la prima regola che infranse fu quella di rinunciare alla religione. E quando una donna vittoriana rinuncia alla famiglia e rinuncia alla religione, che cosa le può restare? E aveva rinunciato anche al matrimonio, perché essendo molto intelligente e poco bella, non aveva speranza di poter fare un buon matrimonio. Sappiamo, secondo i dettami di Jane Austen, che rimangono comunque validi per quell'epoca, che una donna per poter fare un buon matrimonio doveva essere piuttosto stupida, piuttosto ignorante, piuttosto bella, cioè esattamente l'opposto di Marian. Se non era stupida, doveva far finta di esserlo. Questo dice chiaramente Jane Austen, in modo ironico, naturalmente, nell'Abbazia di Northanger. Ecco, quindi che cosa fa? Si mette a studiare. È una ragazza di un'intelligenza straordinaria, ha una cultura perché la famiglia era benestante, quindi fino a 15 anni lei poté studiare con le monache, poi dovette smettere perché la madre morì, quindi lei dovette tornare a casa e occuparsi della famiglia, del padre e del fratello, ma il padre le dette il permesso di avere un istitutore, quindi poté continuare a studiare e studiò da sola, studiò l'ebraico, studiò l'antico germanico, il francese. La sua sete di sapere veramente non aveva limiti e dopo aver rotto questo tabù, diciamo, di non voler più andare in chiesa, per poter occupare il suo tempo da studiosa, si mise a tradurre La vita di Gesù, che non era un libro religioso, ma era un libro mistico, diciamo, scritto in antico germanico da David Strauss, e che a detta di Virginia Woolf era un libro di una noia, di una pesantezza mortale, però lei portò avanti questa crociata e lo tradusse tutto quanto. Poi, siccome. Grazie Giorgia, sì, termino. Abbiamo quasi terminato i primi 40 minuti. Sapete che quando cade la visione dovete ridigitare lo stesso ID che avete fatto per entrare, così ci facciamo la pipì e dopo 5 minuti ritorniamo, ok? Quindi fu importante comunque che lei tradusse, che lei abbia tradotto questo pacco, potremmo chiamarlo oggi, perché l'editore che glielo pubblicò, un certo Chapman di Londra, si rivelerà poi fondamentale. Niente mai è casuale, quindi sempre la provvidenza o la grande madre, come preferisco chiamarla, ci dimostra che tutto quello che ci succede ha uno scopo e verrà buono. In qualche modo verrà buono, niente va mai sprecato. Quindi lei traduce questo, lo dà da pubblicare, Chapman glielo traduce e a 30 anni il padre muore e lei finalmente è libera di muoversi perché non deve più fare la badante di un padre che non le parlò, non le parlò, non la perdonò nemmeno in punto di morte e quindi finalmente libera se ne va a Londra. Recupera il contatto con questo editore Chapman e comincia a lavorare per lui, che nel frattempo aveva comprato una rivista che si chiama Westminster Review, e lui si rese conto della cultura, dell'intelligenza e della capacità di scrivere di questa donna e le dà addirittura la direzione della rivista. La direzione significa che la faceva tutta lei, ossia scriveva saggi, monografie, articoli. La rivista ha un'impennata, viene molto letta, molto apprezzata e così Marian comincia a vivere della sua penna, davvero. È una donna economicamente indipendente, vive da sola a Londra, studia e frequenta questo circolo di intellettuali che ci ricorda un po' quello di Virginia Woolf, il circolo di Bloomsbury, circolo di intellettuali nel quale conoscerà poi l'uomo della sua vita. Che sarà un intellettuale come lei. Ma prima di arrivare a questo uomo della sua vita, lei si infatuò di altri uomini, i quali le dissero senza mezzi termini che, siccome non era bella, loro non la trovavano interessante. Anche scrittori, intellettuali, persone di cultura, uomini di cultura ai quali lei si accostava, infatuata, innamorata. Le dicevano no, tu sei troppo intelligente, troppo poco bella, non mi piaci, non va bene. E quindi lei collezionò tutti questi rifiuti che la fecero, ovviamente la straziarono, perché la sua autostima dovette fare un grande lavoro perché lei rimanesse consapevole della sua intelligenza, visti tutti questi rifiuti maschili che le arrivavano. Ma la grande madre la ricompensò perché conobbe in questo stesso circolo di intellettuali George Lewis, che era uno scienziato, uno scrittore, con il quale visse i 25 anni più belli della sua vita, perché lui divenne il grande amore della sua vita, l'uomo che le fece scrivere il primo romanzo e l'uomo che la portò sulla strada del romanzo, l'uomo che fece la sua fortuna. Come siamo messi, George? Regola che in Francia fu quella di andare a vivere con il suo uomo Lewis, perché fu una regola che in Francia? Perché Lewis era sposato, aveva un matrimonio aperto con sua moglie, aveva adottato i figli di sua moglie, quindi non poté sposarla, ma lei si innamorò profondamente di quest'uomo e lui di lei, erano già piuttosto maturi tutti e due, fu un amore completo, nutriente, pieno, un amore anche intellettuale, anche spirituale, oltre che fisico, ma per poter vivere insieme i due dovettero andarsene in Germania, perché l'Inghilterra in nessun modo accettò l'Inghilterra vittoriana una coppia che era considerata adulterina. E fu Lewis, questo suo compagno, questo suo marito, More Uxorio, la invitò, che la spronò a scrivere il suo primo romanzo, e per far questo lei trovò lo pseudonimo George Eliot. Ci sono due scuole di pensiero sul perché lei scelse di usare un nome maschile, secondo me sono valide entrambe. La prima dice che la sua reputazione era talmente infangata per il fatto che lei era considerata un'adultera che dovette per forza trovare un nome diverso dal suo per poter pubblicare, altrimenti non avrebbe trovato un editore. Ma non si spiega perché scelse un nome maschile. E la risposta potrebbe essere invece il fatto che lei in qualche modo disprezzava lo stereotipo della letteratura femminile, che fino ad allora era stata per la maggiore. Quindi probabilmente per non essere considerata una scrittrice di romanzi femminili, sul modello di quello che potrebbe essere Anne Radcliffe, per esempio, i romanzi gotici di Anne Radcliffe, lei volle delineare il suo lavoro, volle far capire che i suoi romanzi avevano un taglio politico, sociologico, filosofico, economico, e quindi per tutte queste ragioni scelse di chiamarsi con un nome maschile. La terza regola che infranse fu che visse del suo lavoro di scrittrice, traduttrice, redattrice e direttrice di una rivista, e guadagnò anche bene. Ecco, il primo romanzo che lei pubblica, quando lei pubblica il primo romanzo ha già 40 anni e quindi è molto diverso dai romanzi delle sorelle Bronte, che sono sue contemporanee, ma che quando lei aveva 40 anni erano già morte tutte e tre. Quindi, pur essendo nate negli stessi anni, le Bronte hanno scritto in gioventù e hanno fatto dei miracoli, considerato i mezzi che avevano. Ma hanno scritto senza la maturità che potesse guidare in qualche modo la loro penna. George Eliot Marian è esattamente l'opposto. Pubblica il suo primo romanzo a 40 anni, quindi ha alle spalle tutta la vita che ha vissuto fino a quel momento, le scelte, la cultura che aveva potuto farsi, e questo si sente. Cioè, sembra veramente che ci sia un secolo di distanza tra i romanzi delle Bronte e i romanzi di Marian, anche se in effetti erano coetanee. Ecco, quando esce Il mulino sulla Floss, che è il mio romanzo preferito tra quelli scritti da lei, aveva 42 anni, quindi ci mise un bel po' ad arrivare al romanzo. Fino a quel momento aveva scritto solo saggistica, articoli, e aveva mandato avanti una rivista che era rifiorita ed era diventata molto letta e molto amata. Ecco, quando esce Il mulino sulla Floss, che diventa immediatamente un successo enorme, finalmente l'Inghilterra la perdona per il suo vivere in maniera adultera, una relazione di coppia, e quindi lei e Lewis possono ritornare in Inghilterra. Si amarono moltissimo, vissero rispettandosi, sostenendosi per 25 anni. Quando lui alla fine muore, pur non facendo mai vita sociale, perché lei evitava tranquillamente qualunque forma di pettegolezzo, quindi facevano vita ritirata in campagna, all'inizio per necessità, perché non era accettata dalla società, in seguito perché le veniva bene così. Lei non amava, era una donna di un'intelligenza talmente rara che non amava i pettegolezzi della società, non amava le stagioni, della city, quindi viveva con il suo uomo in questa maniera così profondamente spirituale e nutriente per entrambi, ma lui alla fine muore e lei ne è devastata. Lei ne è devastata perché lui quello era veramente un matrimonio alchemico, uno di quei matrimoni rari che nutrono e aiutano al risveglio entrambi i partner. Quando lui muore, lei per un periodo non, è come se fosse morta anche lei, poi scopre per caso che lui probabilmente l'aveva tradita mentre stavano insieme. Non ricordo se lo lesse in un diario, in una lettera, ma essendo una coppia aperta, del resto non dimentichiamoci che lui aveva lasciato la moglie per vivere con lei, per cui evidentemente nel suo pensiero di lui il tradimento era una cosa che esulava dall'amore, non aveva niente a che fare. Lui amava Marian, ma è probabile che la tradì, e questo la portò a infrangere la quarta regola grande della sua vita, cioè a risposarsi dopo 8 mesi che era morto Lewis con il suo banchiere, che aveva 20 anni meno di lei, quindi lei aveva 60 anni, lui ne aveva 40. Immaginate lo scandalo. Veramente Marian è la donna degli scandali. In una sola vita ha rotto tutte le barriere possibili che erano diciamo, le regole più rigide della morale vittoriana. Ecco, in questo modo, sposandosi con il suo banchiere, finalmente Marian diventa una donna rispettabile, perché finalmente è sposata, agli occhi del fratello, e neanche il fratello le aveva più parlato. E finalmente si fa accettare nuovamente dal fratello, può tornare a parlare con lui dopo essersi sposata. Questa è una cosa ovviamente molto triste per noi, ma dobbiamo comunque considerare i tempi. Lei anche questa volta riscatta questo, aveva già riscattato la figura del padre nella figura di nel Mulino sulla Floss, Maggie Tulliver, che è la sua nemesi, aveva già riscattato il padre che aveva preso le sue difese, cosa che suo padre realmente non aveva mai fatto. E nel romanzo anche il fratello di Maggie, che si chiama Tom, che Maggie ama tantissimo, la ripudia ingiustamente perché Maggie non ha fatto nulla per meritarselo. L'unico torto di Maggie nel romanzo è quello di essere troppo bella, troppo intelligente. Lo stesso padre dice: non le porterà bene essere così intelligente, non serve alle donne essere così intelligenti e così istruite, le porterà solo male. E in effetti Maggie vive nella sfortuna. È sfortunatissima perché è così bella e così intelligente, e alla fine si innamora perdutamente del fidanzato e ricambiata del fidanzato di sua cugina. Ora sto parlando del romanzo, non della vita, ma sono fortemente intrecciate il romanzo Il Mulino sulla Floss e la vita di George Eliot, perché lei fa fare a Maggie tutto quello che avrebbe voluto o non ha potuto fare lei. Quindi nel Mulino sulla Floss Maggie si innamora di questo fidanzato della cugina e ovviamente non lo può avere perché non accetta in nessun modo di creare la sua felicità sull'infelicità della cugina. Quindi consapevole che non potrà mai essere felice perché il suo talento, la sua intelligenza vengono continuamente castrati, cioè non le viene permesso di mostrare la sua intelligenza, la sua bravura, il suo talento, ma non le viene permesso neanche di vivere un amore come qualunque altra donna, perché l'uomo che lei ama non lo può avere, quindi che cosa fa? Va a salvare il fratello, la Floss, il fiume esonda, il mulino nel quale vivono il fratello e la madre dopo che lei era stata cacciata di casa finisce sott'acqua e lei dal rifugio in cui era prende la barca, va per salvare il fratello, non riesce a sganciarlo, il fratello rimane sotto un'ondata, lei che avrebbe potuto salvarsi decide di morire abbracciata al fratello. Ovviamente tutti quanti hanno gridato al miracolo, no? Ah, che meraviglia di personaggio che muore per salvare il fratello, ma secondo me non è questo il punto. Maggie si è semplicemente disfatta, sbarazzata di una vita che non avrebbe potuto vivere mai pienamente, perché non avrebbe potuto avere nulla di ciò che il suo cuore desiderava. E quindi secondo me, secondo la visione femminina, che non è quindi la critica patriarcale, secondo me ha semplicemente preso il pretesto per disfarsi di una vita che lei non voleva più vivere. Ecco. Nei romanzi, Marian, ancora una volta rompe le regole, cioè, abolisce completamente la figura dell'eroe o dell'eroina e comincia a descrivere, l'Inghilterra rurale della sua epoca. Cioè, le figure dei suoi romanzi in realtà non sono mai protagoniste. Protagonista è la storia e questa è la grandissima innovazione e quello che ci rende meravigliosamente leggibili i romanzi di Marian, perché in un solo romanzo lei, sono alti, sono 500-600 pagine ogni romanzo, avanti noi intanto. I personaggi e le personagge dei libri di Marian sono semplicemente delle figure sullo sfondo, ma la protagonista è la storia, che in quel momento era un momento di transizione perché si stava andando verso l'industrializzazione. Quindi lei ha questo tocco felice, questa penna felice nel descrivere i movimenti storici, sociologici, filosofici, spirituali del suo tempo, tenendo come figurine sullo sfondo i personaggi. E perfino il linguaggio che lei usa non è il linguaggio letterario, è il linguaggio, è l'inglese delle masse, è l'inglese rurale dei contadini, della gente dove lei era nata, lei era figlia di un amministratore terriero, non era aristocratica o nobile o dell'alta borghesia. Infatti Virginia Woolf storcerà sempre un po' il naso su questo. Non, Virginia Woolf, anche se è stata una grandissima maestra, è sempre stata un po' schiava del suo rango. E tutte quelle che non appartengono alla sua casta, lei le descrive sempre, ha sempre un po' questa forma di superiorità nel parlare delle autrici che non appartengono al suo rango. Anche se devo dire che Virginia Woolf è stata l'unica di quell'epoca, l'unica scrittrice affermata che ha speso tempo e carta per parlare delle altre autrici. E questo è un fenomeno della sorellanza, perché Virginia Woolf scrisse una serie di ritratti delle autrici della sua epoca, cosa che non era mai successa prima, e lo fece con grande lucidità e con grande generosità, per cui questo va detto. Marian era figlia di un amministratore terriero, quindi era di famiglia agiata, ma non era nobile. La lingua che lei conosceva, non essendo nata a Londra, ma essendo nata in campagna, è la stessa lingua che lei mette nei suoi romanzi. I suoi personaggi parlano come la classe rurale. Ecco. Ma quindi non ci sono eroi, non ci sono eroine, questa è la grande innovazione di Marian, ma c'è una figura femminile che a me piace molto, che questa volta non è nel Mulino sulla Floss, ma è in Middlemarch, che è l'altro suo grande romanzo. Sono cinque i grandi romanzi. Io ho letto e prediligo quelli dove ci sono figure femminili, perché sono schifosamente di parte e non ho nessuna vergogna a dirlo, perché ne ho fin qua di romanzi scritti da uomini dove si parla di uomini o viceversa, scritti da donne dove si parla di uomini. Ho bisogno di sentir raccontare le storie delle antenate. Quindi in Middlemarch c'è la figura di questa donna meravigliosa che è Dorothea Casaubon, che è di famiglia molto ricca, con un matrimonio molto infelice, ma per fortuna rimane vedova presto e decide di utilizzare tutti i suoi soldi per aiutare i parrocchiani. Tra le cose che decide di fare con il suo denaro, c'è una grandissima innovazione che è quella di costruire delle case più sane per la gente, no? E questa è una delle grandi visioni di Marian, perché la gente del popolo viveva veramente in condizioni difficilissime, avevano case umide, sporche, malsane, per cui chiaramente si ammalavano, oltretutto forse non erano neanche nutriti adeguatamente, quindi la tubercolosi dilagava, ma per quel motivo, non perché non era ancora stato inventato il vaccino, ma perché le condizioni igieniche e di alimentazione erano pessime. Quindi lei fa dire a quest'altra sua nemesi, Dorothea Casaubon, un'altra donna guarda caso bellissima, evidentemente a Marian il fatto di non essere bella pesava un bel po', perché tutte le sue personaggi migliori sono tutte bellissime, ma sono anche intelligenti e istruite per fortuna. Dorothea Casaubon fa quello che forse avrebbe voluto fare lei, ossia usa il suo patrimonio, l'enorme patrimonio, per costruire case per la gente e per aiutarla con tutti i mezzi possibili per la gente della parrocchia. Quindi alla fine una sorta di eroina c'è, anche se Dorothea non è un'eroina al 100%, ha parecchie pecche nel suo carattere. Quindi non è quella figura perfetta come potrebbe essere Jane Eyre, che fin da subito ci appare come un angelo, e sul quale non c'è assolutamente niente da dire. Dorotea all'inizio è testarda, il matrimonio sbagliato che fa lo fa per testardaggine, per tigna, come si potrebbe dire, perché tutti quante le persone a lei vicine che le vogliono bene glielo sconsigliano, ma lei per orgoglio si incaponisce e si sposa con un uomo molto più anziano di lei, con 20 anni più anziano di lei, che è di una noia mortale, che non sa cosa farsene di una moglie, che non consuma il matrimonio e che passa tutto il giorno nella biblioteca a studiare e a scrivere un'opera che non vedrà mai la luce. Quindi anche Dorotea, pur riscattandosi poi alla fine, sicuramente non è un'eroina come dovrebbe essere intesa nella letteratura. Ecco, Virginia Woolf descrive nel suo ritratto Marian come una donna dalla voce dolce, dagli occhi vivacissimi e dice che per lei era una zia, mentre Elizabeth Gaskell per lei era una mamma, l'altra grande scrittrice dell'epoca, l'autrice della, sappiamo, della biografia su Charlotte Bronte, per lei Elizabeth Gaskell era la mamma e George Eliot a Marian era la zia. Però Virginia non ama lo stile di Marian, lo definisce rozzo. In realtà è uno stile robusto, è uno stile rurale, è uno stile che non concede nessuno spazio all'indagine psicologica, come invece farà assolutamente Virginia e come aveva fatto, abbiamo visto nella lezione scorsa, Cass, che è solo indagine psicologica, è solo ricercatezza della parola, attenzione al dettaglio verbale. Marian è tutto l'opposto. A Marian della lingua non interessa nulla, a lei interessa raccontarci la storia dell'Inghilterra, senza introspezione psicologica, ma quella è l'unica che manca, perché per il resto c'è introspezione storica, filosofica, economica, sociologica, tutto quello che può servirci per conoscere la storia dell'Inghilterra da un punto di vista femminile. Ecco, che è ben diverso da quello che ci raccontano i libri di storia, naturalmente, come sempre. Ecco, diciamo che la letteratura di Marian, con questi enormi affreschi storici, è esattamente l'opposto di quelli che potrebbero essere i racconti di Cass, di Catherine Mansfield, che abbiamo visto la volta scorsa, che invece erano pennellate minimaliste che alle volte magari parlavano di una giornata o di una festa o di una cosa piccolissima, però dando spazio a tutte quante le sfumature psicologiche. Marian scrive storie, scrive proprio quella cosa che Virginia Woolf definisce volgare. Virginia Woolf diceva la storia è volgare, è la psicologia che è interessante, invece Marian scriveva proprio la storia, quindi immaginatevi come deve aver fatto fatica Virginia Woolf a scrivere su Marian senza lasciarsi trasportare dai suoi pregiudizi. Ecco, se ci pensiamo però, e concludo con questo perché voglio lasciare più tempo della volta scorsa alla meditazione. Se ci pensiamo, da Jane Austen, cioè dalla fine del Settecento, l'epoca in cui scrisse operò Jane Austen, fino ad arrivare a Virginia Woolf e Catherine Mansfield, in questi 150 anni più o meno, si è delineata l'evoluzione della donna attraverso i romanzi. Prendiamo per esempio i romanzi di Jane Austen, che io credo che tutte quante voi abbiate letto almeno un romanzo di Jane Austen, perché è la base, di solito il primo libro scritto da una donna con cui si parte è Orgoglio e Pregiudizio, per cui do per buono che l'abbiate letto tutte. Ecco, i romanzi di Jane Austen o delle sorelle Bronte hanno sempre un'eroina. C'è sempre, cioè la protagonista femminile ed è sempre una eroina con un riscatto finale, di qualunque tipo, ma c'è un riscatto finale perché questa persona, questa donna, deve andarsene secondo le regole. Questa visione, cioè la storia dell'eroina che si riscatta alla fine in un modo o nell'altro, per Austen, Jane Austen in un modo, per le Bronte in un modo differente, ma comunque sempre un riscatto, è completamente stravolto da Marian, da George Eliot, che invece non ha la figura dell'eroina, ma ha questi grandi affreschi dove si comincia a prendere coscienza di quella che è la vita delle donne calata nella società. Per finire con la terza fase, che è quella di Cass o quella di Virginia, che abbiamo analizzato bene la volta scorsa, dove la storia, cioè diciamo il contesto, lascia lo spazio all'introspezione psicologica e quindi allo scavo interiore, alla pennellata, alla possibilità di concedersi tutto il tempo che serve per poter descrivere un pianto, un riso, una presa di coscienza. Quindi è sicuramente un'evoluzione, almeno io la vedo così, attraverso la letteratura, una presa di coscienza della donna nei suoi diritti. Nei romanzi delle Bronte o di Jane Austen non c'era coscienza dei propri diritti, non ci si concedeva il lusso di perdere tempo analizzando la propria psicologia, la propria evoluzione. Questa coscienza del proprio diritto di scavare dentro di sé è arrivata attraverso tutte queste tappe. Quindi tutti questi romanzi sono stati manifesti politici che hanno poi consentito di arrivare a cosa? Al suffragismo. Alla richiesta delle donne di poter votare, di poter rivendicare la proprietà della loro dote, di poter possedere una casa, di poter entrare nel mondo del lavoro. Questi sono stati dei passaggi fondamentali, anche se sono avvenuti attraverso la letteratura, ma le donne leggevano e leggendo prendevano coscienza di quello che avrebbero potuto fare, di quello che avrebbero potuto pretendere. Ecco.